su 10 c'è qualcuno? Proprio nessuno. Ah, e tu chi sei? Cosa sei? L'unico superstite? Oh, stavo leggendo già. Stavo leggendo roba su internet. Questo adesso, però fino a mezz'ora fa, praticamente dopo mangiato, mi ero messo qui seduto sul divano vicino al baracchino, sempre che leggevo, mi è venuto un abbiocco tremendo e mi sono trovato drumidu, avevo dormito mezz'oretta, ma assassomi. E lo fa anche a me dopo mangiato. Come vecchi mi fa, boh. Vabbè. E quindi stavo leggendo, qua di me è sempre acceso, quasi sempre acceso, dai. Tutto qui, già. Giornata calda, molto calda, però anche oggi credo che non debba uscire. Domani penso che uscirò. No, io ero in banda laterale. In banda laterale facendo un po' di chiamate, ma qualcuno ha risposto, però era un po' così la propagazione. Sulla tripla? Capo. E adesso migliorerà ancora, amico, con questo tempo migliorerà ancora la propagazione, K. E sto usando la MB più 5, come mic da tavolo, così dai. Il gatto è dormito. Vediamo se lo senti russare, aspetta. Non si sente, dai. Anche Tyson è drumito, lui prende sempre le sembianze del padrone. Vediamo che mi curi con babbo e si gocca subito due. Che bellina quando russa, sembra una persona, sembra, guarda. E anche lui, anche Tyson è così, ma quando lo molla, Bombardiere? Lo mandiamo da Putin allora. Cazzo, ma un odore, non si sente il rumore, ma un odore che ti crepa. Ed è solo a gas, me. E quando era? Ieri sera, stamattina mi pare il gatto ha fatto la pupù, che la sabbietta è in questa stanza, un odore, non sempre è così, ma quando è così è terrificante, da evacuare l'appartamento, ho dovuto aprire tutto. Quanto ne avete? Due, Marco? Due. K. Anche quelli già vogliono mantenuti, nel senso che hanno bisogno di cure al veterinario. A conti fatti conviene fare l'assicurazione, così se devi operare, devi fare qualche cosa, paga tutta l'assicurazione. Sì, praticamente poi per mangiare è come se fossimo in quattro persone, dai. Che cosa vi dà da mangiare? Roba vostra? No, roba loro, quella roba pronta, non li faccio, anzi tu fai molto bene a fare il pollo fatto sul momento, con le verdure, c'è roba fresca, quello andrebbe dato a cani e gatti, roba fresca, non scatolette che sono cibo spazzatura, però se dovessi cucinare anche per loro, io a malapena cucino per io e me e mamma, figurati. Lo sai che ho provato a comprarli quei bocconcini al cane, i bocconcini di carne, non ne ha mangiato, con la zampa li scartava, come se volesse scavare, li scartava così. Come se fosse cacca, sì. È vero, è vero. E beh, meno male, lui è abituato alla roba sana, capito? Se tu senti un salutista, dice che l'alimentazione dei cani e dei gatti dovrebbe essere come quella che fai tu, cioè cucinare carne fresca al momento, addirittura c'è chi gliela dà anche cruda agli animali, però presumo che cotta sia un po' più digeribile, dai. No, io glielo tutto cotto. Io la faccio, gli metto un po' di olio, le la faccio arrosto, gli metto la pasta in mezzo, perché la pasta la faccio già precotta, la metto in frigo e poi le la tolgo quando la devo dare, capito? La pasta le faccio un mezzo chilo e mi dura una settimana, dai. E poi gli metto un po' di crocchette, di quelle buone, di quelle della Trainer, che c'è 50 euro il sacco. E poi basta, verdure, a volte piselli, a volte li metto carote, ma li lascia, non li piaccio. Ma un attimo solo, Io. Mi già l'ho trovato. Cosa? Aspetta, che te lo mando. Era una registrazione di Flo quando dormiva. Senti la russata, Invece il Tesla la fa più grossa. Fa... Oh, io, io. Comunque belle giornate stanno facendo, solo che vabbè, io tra fare una cosa e l'altra alla fine non mi viene voglia di uscire per conto mio, capito? Ma che lo sta dicendo? Sono due o tre giorni che mi mette in testa esce dalla Platanona col cane, poi mi ricordo che manca questo, che manca l'altro, vado a fare la spesa, vado a fare questo, vado a fare l'altro, è già l'una. E cosa fai? Se almeno che scendi di sera, ti fai un panino e scendi a prenderti un po' di sole. Sì, anche nel pomeriggio puoi andare però. Anzi, pomeriggio magari alle 4, mi pare alle 4, apra... non è tanto pomeriggio, c'è... Forse alle 3, alle 4 apre la gelateria che c'è alla rotonda lì. Ah, pure gli orari sai. Vabbè, io la gelateria me la sono portata a casa oggi e me ne ho slurpati gelati. Ehi, per esempio, non so se Lido, come si chiama quel bar che c'è a destra della rotonda, se gelati li faccia freschi, no? Vabbè, il gelato è buono, porca miseria, è pericolosamente buono già. Lido Punta Bianca, si dice. Quel bar che c'è a destra della rotonda, cioè tu proprio sei alla rotonda, e a destra c'è quel bar, come si chiama? Titanic. Sì, Titanic. Quello non so se faccia gelati, i gelati freschi, se ce li abbia, non, lì non sono mai andato. No, l'unico che li fa freschi mi sa che è quello della Torrette. Torretta? Ma Torretta, tu stai dicendo quello in fondo alla via Lido Militare, come si chiama? Il bar della Torretta. Guarda che c'è anche quando fai il vialone, appena finisci il vialone, poco prima della rotonda a destra c'è quella gelateria, no? Mi ricordavo anche il nome, non mi viene il nome. Ah sì, quello lì ho capito, quello è un amico mio. Ho capito che fa anche le piadine, fa. Sì, esatto. Una volta faceva o fa tuttora le piadine, dipende dalla stagione. Come delle crepe sono, dai, più o meno. Io ho gelato, insomma, io vabbè, non sono un intenditore, non saprei dire se è più buono di altri posti, però almeno non ha il ghiaccio dentro. A seconda dove vai trovi proprio il ghiaccio tritato male, capito, mescolato male. Quelli sono quelli che arrivano già pronti, gusti, nelle vaschette e così per quello. Invece lì lo fanno proprio fresco, no, lì li fanno buoni, e il resto quello lì è... Invece, adesso non mi ricordo quanti anni fa fosse, però tanti anni fa, tu prendevi questi gelati, fatti freschi diciamo, né? Però prendevi un gusto, prendevi l'altro gusto, sembravano tutti uguali, cioè sentivi questa roba dolce, ma si equivalevano tutti i sapori, capito? Era una specie di dolce indefinito, allora mi sa di roba non tanto artigianale ho già. E al capriccio le avevi mangiate a Porto Torres? Dove? Al capriccio, il capriccio si chiama, è alla fine del corso. No, Porto Torres credo di non aver mai mangiato gelati, vabbè adesso non me lo ricordo, sono passati anni, ora si può dire pure, ma bisogna vedere qua, 30 anni fa, 20 anni fa, Io ho già riconosciuto tutti i posti buoni, sia della roba da mangiare che dei gelati, Noi siamo intenditori per il dolce, mi sa, mamma mia. Va bene. Sono curioso di gustare, cosa impossibile, il gelato che fa mio cugino. Lui abita in Irlanda e fa quel lavoro lì. Ma roba anche bella, anche elaborata, bella anche da vedersi, devi vedere che roba, ogni appento. E dice che lì... In Irlanda, che pure c'è molto a nord, dove ci sarà un freddo, eppure il gelato lo mangiano tutto l'anno. Invece da noi molte persone hanno la cultura del gelato solo in estate, cioè dice il gelato lo mangi in estate per rinfrescarti, invece lì lo mangiano tutto l'anno ed è un alimento anche bello ricco e non so completo proprio se è completo del tutto, però è una cosa nutriente se è naturale, dai. E ha molte calorie, sì. E vabbè, lì in Irlanda sono abituati al freddo, quindi la temperatura corporea deve essere più bassa della nostra. Sì, la media è più bassa, però certe volte mi credo di che avessero le nevi perenni, invece no. Certe volte anche da loro 30 più gradi, cioè. Certo, in proporzione, vabbè, molto più a nord, quindi insomma l'inverno sarà più freddo del nostro, presumo. Io già non sono mai stato, mia zia è andata a trovarlo in Irlanda. Cosa ti volevo dire? Sì, quindi lì lo mangiano, io lo mangio tutte le stagioni, cioè anche quelli confezionati, io anche in inverno li mangiavo. Cioè se ti piace una cosa la mangi tutte le stagioni. Adesso ti sembra una cavolata, ma per esempio la fainé la fanno solo in inverno, no? Ma se io la trovassi disponibile anche in estate, e tanto la pizza uno la mangia l'estate, no? E anche la fainé la può mangiare se gli piace, è che non ne trovi posti che la fanno in estate, credo. No, non ce n'è. Chi fa la fainé solitamente fa anche le pizze, quindi vende le pizze l'estate e la fainé la lascia da parte. Perlomeno quello dove la compro io fa così. Eppure, addirittura c'era da Lidl la fainé, certo fatta un po' più industrialmente, la chiamano farinata di ceci, e ho provato a prenderla, è surgelata, pensa, eppure la metti al forno un quarto d'ora e il sapore è uguale a quella che prendi, che ne so, in via Usai. È sottile, certo è un po', non mettono cipolla né niente, è proprio normale, no? Però il sapore c'è. Infatti a mamma piace parecchio, dice se la trovi comprala. Ieri ce la siamo crepata ieri, una teglia a lei e una teglia a me, piccola, in misura unica. Ma com'è, già allargata, già liquida, come rimane? Già cotta? Sì, già diciamo precotta. Un po' come le patate fritte, precotta nella teglia di alluminio e la scatola è di cartone, tu la metti in un fornetto elettrico, loro dicono 8 minuti, ma in realtà se è surgelata non bastano, 15 minuti, così si dora un po' sopra e il sapore è buono. Poi certi magari dice ma se le metti vicino, e io dico, e io un giorno faccio lo scherzo a qualcuno in inverno e gli dico che quella è presa da via Usai, voglio vedere se c'è qualcuna differenza. Ma com'è, spessa o molto fine? Aspetta che c'è questo CW che è assillante e mi alzo anche il volume. Dimmi Gianni, se è secca? No, dico è spessa oppure fina. È abbastanza fine già, abbastanza fine. Vabbè, a me piace tutti i modi, sottile, più spessa, sottile. E costa, guarda, in offerta era 1,99. E al di fuori dell'offerta mi pare 2,59 o 2,69. E poi mi ha detto Coso, no, che ci lavora, il solito figlio di Veratre, no? Che praticamente quella corrisponde a una teglia piccola che prendi in pizzeria, no? E la teglia piccola, semplice, ti va a costare già credo quei 7 euro ormai, con il rincari dei materiali, 7 euro, forse anche 7,50 euro, può essere. Io la teglia piccola la pago sulle 20 euro, però la teglia piccola che io prendo dove la compro io è già grande e due persone a mangiarsela tutta non ce la fa. Infatti, buonasera, chi è entrato? Ma piccola, forse allora è più grande di questa che dico io. Questa, diciamo, intera riusciamo a mangiartela tutta, se c'ha problemi. Io ci aggiungo un po' di pepe nero, perché se c'è il pepe nero, guai. Buonasera, andate avanti. E anche io la prendo dove la prende Gianni, però in due passioni non ve la vai a mangiarla, la chissà, minori. La Lord è diecina. Ha ragione Gianni, te ne mettono un bel. Quella adesso se ti dico i grammi è sottile, sicuramente allora di volume è inferiore alla teglia piccola, però capito, c'è una sproporzione nel prezzo, capito? Cioè, una teglia piccola 7 euro o di più non è poco, semplice, dico, senza cipolla, senza salsiccia. Però io la prendo metà normale, metta con le cipolle. E ti sto dicendo che ne ha avanzata, in due non verrai muvata, magnazzira. Quando gli hanno detto io la tarino, mi è avanzata ed abbiamo mangiato un bel, e il giorno dopo l'ho messa nel fornetto, era come se l'avessi comprata il giorno. L'ho messa nel microonde, l'ho scaldata, era buonissima. E così ho fatto io la stessa cosa già. Cosa le hanno insegnato i suoi gatti? Ne è avanzata poca, però in due tutta non ce l'abbiamo fatta, era gruppa io. Molto bene. Adesso sono da un bel po' che non ne prendo. Però la piglio lì, perché a prenderla da Antonio non fa, perché è tutto pieno di nigeriani qua. I gatti sono la mia e non fa. Che ti no, poi a parcheggiare è un casino. Ci deve essere in due, noi siamo andati in due a prenderla da Antonio, però poi che cosa cambia? Non cambia nulla, la fanno buono anche lì. E poi a me me la portano a casa, non ci vado neanche a comprarla io. Sì, io faccio lo stesso, me la faccio mandare a casa quando la prendo, però adesso vabbè, non ne prendo più, non me la mangio, l'asura me la mangio. E infatti Cavagarro Catarino. Uia. Io lo sai cosa mi sto prendendo, quelle pizzette al taglio sotto casa, sono si buone, le fanno sino a giovedì, poi venerdì e sabato non le fanno. Ma belle, croccanti, belle piene di formaggio, buonissime, saporite proprio, più buone di quelle di via Grazia Deledda sono. Ehi, già me l'avevi detto che fanno le pizze buone lì sotto casa tua. Stanno facendo anche le pizzette, la roba fritta e i panini. Fanno calamari non ne stanno più facendo, stanno facendo pollo fritto, vedendo il morso di patatine, tutte queste cose qua. Sì, ho capito. Faceva questi calamari, non costavano manco tanto, gusci buoni. Poi non ne ha più fatto perché ha detto che il fornitore non ne stava più dando. E quindi per prenderne altri, prendere i clienti, ha detto magari non servono e non ne prendo più. Il fornitore, quelli che mi dava quel fornitore lì, erano buonissimi. Mi dice che poi non ne hanno più pescato, che pure non so che cosa, non ne hanno più mandato manco a lui. E beh, senza la materia prima come fa quello? Ha ragione. Io gli ho detto a prendere da un altro posto, no già, non mi fido perché poi magari sono cattivi e perde clienti. C'ha ragione infatti, se da voi il cliente la ciappa mari, non va da più, e pesi i clienti belgi. E dalle. Però ti dico che erano buonissimi Natali, erano belli croccanti, non cigomusi, belli croccanti, buoni, pieni dentro, non erano né vuoti dentro, perché certi è tutta impanatura, ragazzi, da voi i calamari non vedete. Questi erano proprio veramente buoni. Io me lo posso immaginare. Andata lì, quello stai usando. Ehi, perché si sente? Siccome ti sto ricevendo col 5005 e la tonalità di ricezione è calda, con questo apparato, mentre ieri avevo il presidente, questo c'era più caldo la ricezione, c'è un bel vocione, cazzo, ogni modulazione. È bello. Questo qui è bello, forse il più bel maracchino che ho avuto. Per quello non ne volevo mollare io. Gianni, guarda che ho ancora il cartone che devo buttarlo nella carta lì, del differenziato. Quella è la confezione, molto semplice. K. Non me lo mandi da vedere. Te lo posso anche mandare, non c'è problema. Così non me lo dici qua che apparecchio. Sì, un baracchino. Quell'altro non l'ho ritirato, Natalia. No, quello lì ancora no, non è pronto, perché solo a smontarlo ci ha messo 9 ore. Vabbè, poi è lungo quello lì, ohia, ce ne sono 2 lunghi che io conosco. È delicato quello lì, è meglio che lo faccia piano piano, capito? Anche se a fare. Io il pezzo gliel'ho comprato nuovo e così almeno sono sicuro che è nuovo. Ma ce n'era uno, lo stavano vendendo a 300 euro su internet. Però non sai mai com'è, capito? Magari ti arrivi ed è una fregatura. E poi se lo stavano vendendo 300 euro non è come il mio, assolutamente. Il mio c'è l'accordatore automatico, va tutto. Anche questo c'aveva accordatore automatico entro contenuto. Il 440, il 440 ce l'hanno tutti l'accordatore o no? No, non ce l'hanno tutti. La versione SAT dovrebbe essere, no? Autotuner. L'SAT ce l'ha solo. Ma 300 euro mi pare che sia troppo poco la situazione. Secondo il mio parere, se è buono non può essere 300 euro, manco un 140 a pigli. No, 140, io l'ho preso con 250 euro, 140. Ma secondo me quando ribiglia chi sombrice non pare da nulla. A chi sono tutti scacciavitati, tutti i bottimari? Lo dicono loro. È da fuori, non è qua, no. E praticamente questo dice che per passare a cose superiori lo sta vendendo, no? Perché non c'è, perché è nuovissimo, non c'è un graffio, c'è scritto, non c'è un graffio, nuovissimo, tenuto maniacalmente, e vabbè, però non si sa mai che arrivi a che bacù col mattone dentro. E come è successo al padre di Mario Carta, al fratello di mia zia, perché lui era corriere postale, no? Viaggiava con la posta in treno e era capitato a Napoli e praticamente in queste bancarelle vendevano di tutto e c'era una bella radio, un Grundig. Signor, lo pulite Grundig e se l'ha fatto, me lo incarti. Quando arrivi da Sassari vedono 2 vorattini dentro, non si è abitato, manco la viene data una confezione diversa. Lo fanno, l'ho letto anche su internet in quest'anzi, l'ho visto filmato. Questo qui si è fermato al rifornitore, si è avvicinato uno, gli ha detto se voleva un iPhone. Questo qui siccome aveva il nipote che si doveva laureare, gli ha comprato 300 euro mi pare, e praticamente quando è arrivato a casa c'era il mattone dentro e ha chiamato questi qui che sono del recupero crediti eccetera eccetera, sono andati, questo qui era ancora lì, aveva la faccia di restare lì, capito, sempre nello stesso punto, l'hanno beccato e gli hanno detto ritorni su, stiamo chiamando la finanza. Il napoletano è una scena. Chi non è potuto andare a Turali Nusa, ma cosa? Quando è tornato in Sardegna, cosa faceva? Andava a tornare a Napoli. Tanto io quando vedo che sia qualcuno di Napoli che vende la roba lo scarto proprio, sarà un modo di essere razzisti, però cavolo, c'hanno quella fama e preferiscono rischiare. Questo è poco ma sicuro, Comunque questo mi è arrivato ieri, mi è arrivato, è di lusso veramente. E io ce l'avevo già questo qui, me l'avevo venduto, però questo è tutta un'altra minestra, l'hanno fatto anche meglio questo qui. Ma questo qui è come quello che c'ha anche Carlo. faccia? Ce l'ha anche Carlo uguale, quello che si è preso l'uovo. No, no. Oltre sarebbe stato proprio lui intorno a... Quello è 9009. Questo è quello originale proprio. Perché di questi li fa la CRC, un sacco di affari, ce ne sono anche marcati Kenwood, però non so come integrizio. Questo è l'originale, quello che l'ha fatto proprio, il primo. E come questo già? Ah, sono quelli praticamente che hanno menu contro menu e sono tutti difficili da programmare, quel tipo lì. No, ti dirò già, questo è il più simile al 3009 perché ha molte manopole e molti tasti frontali. Sì, ha un menu, però sono cose che tocchi la prima volta e poi non le tocchi più. Fa anche rima con menu. Volendo si può programmare, puoi personalizzare i canali tipo 60 per banda, no? E altre cose, però tutto lì. I canali sono una cosa a parte, in realtà lo puoi usare già così come esce, vero Natalì? E a me mi hanno fatto la modifica, se no non ci viene qua, no, questo. Me l'hanno già modificato loro, mi hanno ampliato la banda, se no non ci viene in 27, è fatto per i 28, capito? Vabbè, da quello basta, mi pare la pressione di un tasto o due e accendi e cambia la banda, capito? E io ho capito, mi l'hanno fatto vedi chissà. Non mi hanno fatto pagare nuda ne manco. Comunque scende fino a 25 e qualcosa. L'ho già fatta quella prova che mi hai detto tu. A vedere la larghezza. Sì, allora. La versione base, no? 25615, 28305. E infatti. Però secondo me è meglio avere una banda in più sopra e una meno sotto, perché almeno puoi ascoltare i radiatori sui 10 metri anche, volendo. Ascoltare almeno, capito? Bene, riprende già. Vabbè, da, quando me lo manda lo vedo com'è. Costa una cavolata. Costa. Non prendi manco un Alan 48 con i soldi che paghi questo. Costa di più l'Alan 48 e non serve a nulla. Questo almeno è un apparato serio. Con quanti watt esce? Non me ne lamento, comunque sì, adesso sto scendendo con 2 watt per esempio, scende più del 3009, 2 watt sta usando adesso. E come vai così pochi? Perché è regolabile, no? Barbara, Anna Maria, come ti arrivo io adesso? Quanto ti sto arrivando io adesso lì? Prova! Guarda a vedere, 1, 2, 3. Sempre 9,30, quasi sul di... E allora non si vede la differenza, se ti arriva 9,30. A 2 watt, aspetta, facciamo la prova. Ecco. Parla anche tu Natali, vediamo che passa. Allo grebo Natalino, lo passo io, lo passo, lo schiaccio. Lo crepa, lo faccio schiattare. Parlate insieme però, se parla prima con quell'altro lo capisco. Parla con muro. Lo passo, lo prego, ora 2 watt, il microfono amplificato, ora fa schiattare. Tutti e due vi sento tutti e due, vi schiatti, tutti, non passa l'uno né l'altro. Quindi qualità. Abbiamo 2 watt, tutti e due. Mia, aspetta un attimo, guarda per se si vede un po' di differenza, ma se ti arrivo 9.30 già, aspetta un attimo. Se arrivi sul DB Natali, è il massimo, proprio arrivi sul DB del 9.30, è il massimo. Guarda, così è al massimo, però non lo so se noti differenza, tu siamo troppo vicini pure. È il massimo da segnare come prima, capito? Se arrivavi con 2 watt sul DB da 9,30, immaginati. Infatti non c'è differenza. Insomma, parità. Già va bene, dai. Sono contento per te che te l'hai comprato nuovo. Ma sono apparecchi che hai prima, te l'hai venduto con l'apparecchio lì e poi te l'hai comprato. E almeno questo è nuovo, poi è la versione nuova questo. Le scritte tutte verde acqua, è bello, di notte deve essere cosa ti posso dire, uno spettacolo a vederlo. È bello, sì. Aspetta che cerco il telefono, vedo dove cavolo l'ho messo. Io già, prima ho dovuto eliminare un messaggio vocale perché, senza accorgere, mi stavo scatarrando, come ho preso il cellulare in mano, ho trasmesso la scatarrata involontariamente, ho dovuto cancellare. Marco, ci puoi mettere i microfoni amplificati anche? Naturale, allora la presa a 4 poli uguale al 3009, però devi risaldare il filo della ricezione, sarebbe il pin 4, sul pin 4 non devi mettere niente, io sto usando attualmente quello lì che hai visto con, aspetta che metto almeno 4 watt, sto utilizzando l'MB più 5 su quell'apparato K. Io l'MB più 4, niente, l'ho mandato già. Bello, Martali, bello, un bel apparecchio. Sarebbe bello la soddisfazione, Martali, trovare la versione russa dell'epoca, era marcato Kenwood, cioè la Kenwood l'aveva importato, è marcato Kenwood da usare su 10 metri, te lo immagini? Non ho capito cosa stavi dicendo, Marco, che non ho capito quello che stavi dicendo. Che sarebbe stato bello averlo marcato Kenwood, quello, la versione russa, marcato dalla Kenwood. E infatti ci sono quelli lì, solo che chissà che casa li fa, sono marcati Kenwood, già lo so. No, che cosa li fa? La Kenwood lo faceva, così come aveva marcato l'UV5R, il Baofeng, l'aveva marcato Kenwood, l'aveva importato e marcato Kenwood, cioè proprio la frutta era la Kenwood, cioè non faceva nemmeno roba sua. E infatti è roba che loro importano e poi la marcano con la loro, con il loro marchio, però non li fanno loro, capito? Chissà che è Giribaldi, ce ne sono CRT, ce ne sono di tante qualità, cioè di tante marche, l'apparecchio è rumatissimi. Hai visto com'è Marco? Sì, io praticamente a Gianni gli ho mandato la foto in penombra dove si vede la retroilluminazione e le scritte bene, è molto bello, infatti in macchina è bello di notte in macchina. Un bijou, certo sono barasoni, però nella mia ci sta, eppure la macchina non è che sia nemmeno una, che ne so, una Fiat Multipla, è una normale macchina, 4 posti, 5, quant'è, vabbè, già hai capito, ci sta anche il passeggero a fianco, non è un problema, basta mettere il sedile un pochino più indietro. E ho capito, e questo non esce da qua, è nuovo, e anche il 3009 me l'avevo preso nuovo, così non l'ha toccato nessuno e l'ho toccato solo io, e buh, ed è normale. Così almeno sono tranquillo. Cosa ti volevo dire? L'ho attaccato allo spezzone, così il microfono ce l'ho sul tavolo. Allo spezzone del 3009, no? Così va bene anche sul 3009. Questa roba di sirene. Sentitele. Polizia è questa. Da te stanno venendomi. E sarà la chirurgia nei due. No, mi ha detto mia moglie che la televisione. ma qui già se ne sentono sirene di polizia, non ti preoccupare, oltre a quelle dell'ambulanza. Ah, era la TV. Adesso era la TV. Sembrava vera, live. Quando passa la vera già te la faccio sentire, perché qui passano spesso e volentieri a sirene spiegate. Perché la polizia fa 2 turni, invece l'ambulanza ne fa 3, capito? È diverso. Ci sono certe zone che sono proprio, se tu vai al chilometro abiti a Sassari 2, io lì andavo con il cane perché c'è un giardino che hanno fatto nuovo, il cane ci sta benissimo, ci sono, c'è il parco giochi eccetera, e quando andavo a accompagnare Elena al lavoro, quando ritornavo mi scaricavo il cane, no, quando ritornavo scendevamo lì e mi passava ogni giorno due, tre ambulanze quando ero col cane, sempre. E quelli di Sennori che vengono a Sassari, salgono, passano anche qua, è un macello le ambulanze, la polizia che si sente, qua ogni 5 minuti c'è l'ambulanza. Non voglio pensare chi abita in via d'Italia. Cazzo, chi abita in via d'Italia convergono tutti lì per forza. Daniele, ma... Io vivo in Andromeda, non ce la fanno la pellicola la gomma, la faccio io. Quello è poco ma sicuro, già sono tante quelle che passano qua, figurati in via l'Italia, sarà un inferno. E via Trento lo stesso, però diciamo che vabbè, se non abiti proprio sulla via, via Trento è ancora accettabile la cosa, via l'Italia però deve essere proprio un inferno. Vi siete sovracalpestati, tu e Marco. Riprendi già. Monello, Marco. Ma sai cos'è? Se premiamo allo stesso istante non ci accorgiamo, capito? Se ci fosse un sistema, se esistesse un sistema che ti permette di staccare la portante quando riprende qualcuno. Il sistema già c'è. Basta che quando uno molla dice avanti Marco, ecco, e vai avanti tu, poi avanti Gianni, ecco, e così si può regolarizzare la situazione. Facendo la ruota come da regolamento. Una sera proviamo, magari se siamo già in quattro viene bene, no, anche in tre viene bene, ma per fare pratica mi. E ci sovramoduliamo, capito? Perché Gianni c'ha il dito veloce. Ma tu hai detto, avete parlato in due, ho sentito la telecamera, ha detto, e Gianni c'ha il dito veloce. E lo so, e lui preme subito e quindi mi calpesta sempre. Che tu mi passi sempre vicino a Marco. Va bene, avanti Natalino, vediamo un pochettino. E la metà è rugasino. Non mi fate ridere che mi si sollecita la vescica, che sono anziano. Ah, pure anziano, sì. Avrei voluto tornare quando ero bambino, che ero felice. Adesso è tutto diverso. Anche io. Così almeno non avrei avuto il baracchino in mezzo alle scatole, sarei stato felice, giurivo. Avete parlato in due, torna. E allora abbiamo la ruda. E se no è no che è un macello. Perché io sono più lento di Gianni. Aspetta, Natalia, un secondo solo. Ho detto, Marco, bisogna che ti dia una scrollatina tu, perché sei tu che ti abbatti. Non ti devi abbattere, devi uscire, devi frequentare gente. E allora, magari qualche donnetta ti capita anche. Se proprio do forfè, cioè la sera, la notte, non sempre a me piace uscire, infatti c'è volte proprio non ho voglia, mi guardo la TV, bello, mi stravacco, non me ne frega niente, se no è impegnativo, capito? Cattare, va. Sono uscito stamattina, dovevo fare un impegno che devo fare un favore a una certa persona, ogni tanto mi chiama e gli devo fare questo favore. Sono uscito e poi me ne sono andato a Platamona con mia moglie, almeno ho preso un po' di sole e almeno fanno effetto quelle vitamine che sto pigliando, che ho quella carenza brucia, chiedo sempre i sarradi nobili, va sì. In prigione. Sì, la vitamina D, è vero, fa bene il sole, aiuta a metabolizzare la vitamina D. Io e Natali ce l'abbiamo come i vecchi tempi a karaoke. Aiù, andiamo. Sì, che... Io già sono libero, dai. A chi dà travagliendi, così è. E mi ha adesso il 29, parte la 50, deve andare in continente, almeno quando il gatto non c'è, i tuppi ballano. Quindi la balla mi da bocca me ne cavate. cominciamo a contattare polacchi, ungheresi, slovene, di tutto, ucraine. Tutte cose, Marco, ci facciamo a beffa. Gli ho detto, attenzione quando torni a non toccare l'architrave con le corna. Veramente, gli ho detto così a mia moglie. Ah, ma non sa so, si pazzi o no, perché dice che sono birichino. Ehi, se lo facessi una cosa del genere, secondo me te ne sei calugoddu. Cazzo, se fosse una cosa del genere, mi copri, mi una busirata, chissà. Eppure hai madda. Bene, bene. Comunque ho controllato il menu. Allora, la funzione Busy non c'è su questo apparato. Ecco, la funzione che ti permette, se tu sei girato che non stai guardando lo smitter, se qualcuno sta occupando il canale e tu premi, all'istante ti stacca la portante, in modo da non parlare in due. Però qui non c'è, a meno che non sia sul menu di programmazione. E non ne ho voglia di guardarlo. E non so neanche io se c'è qua. Mi ho scaricato il manuale in italiano. Ma per programmarlo quello lì, cosa c'è bisogno? Del cavetto o del computer, oppure può programmarlo dall'apparecchio? No, te lo programmo io se te lo compri, non c'è problema, non ce ne vuole né cavetto né nulla, devi entrare nel menu e mettere a posto delle voci che ci sono, per esempio regolare il macchine, il bip, lo puoi fare come vuoi, mi guarda il mio, aspetta te lo faccio sentire, guarda il mio, il bip. È leggero, leggero, non dà fastidio quello. Quello di Marco com'è? Non lo so se ce l'ha come il mio, siccome quello del 3009 è troppo lungo, l'ho fatto come il Colt, fa B e B il mio, e B dovrebbe fare così. L'ho regolato basso di tono, Gianni, senti un po', puoi regolare il tono e la velocità. Sì, sì, va bene anche il tuo, non è di quelli scoccianti, di quelli che danno fastidio. È bello quello di Marco, uguale al mio è, Marco. No, quello di Marco c'ha i toni più bassi e più acuti. Sì, io ho messo un tono basso, forse 1000 Hz, forse, devo controllare. Sì, ma è bello questo beep. Aspetta che se premo la portante mi esce il menu, me sto operando il menu, riprendete voi. Ieri, Natali, in farmacia stavano misurando l'udito, diciamo, stavano facendo cosa dell'udito, e me l'ho fatto fare. E è fatto bene, conviene controllarlo ogni tanto. Ho detto prima, non volevo ripetermi, insomma. Cosa ti volevo dire? E io l'ho pagato 163 questo. In tutto con le spese di spedizione mi è venuto 171,99, 172, da. Non pigli manco. Ho pagato di più il 3009. Questo qui a me mi serve perché posso ascoltare a 555, capito? Mi serve per quello, non per altro, almeno il 3009 lo lascio normale. È un contesto. Io ne ho parecchie, posso ascoltare lì, però mi piacerebbe averne uno di questi moderni, dai. Quelli che ho io sono tutti quanti un po' adattati, ma sono tutti belli apparecchi, ma sono tutti adattati. Ce n'è uno che c'è con 100 watt in banda laterale. Ehi, vabbè, almeno non usi lineare, da. Quando c'è la propagazione te ne vai in banda laterale, va bene, questo esce con 30 watt, mi sembra in banda laterale, non è a cucchi, no, però non è toccato, se no può uscire anche più forte. Questo è normale, se ne dà 15 in banda in AM e 40 in FM ne dà. In FM c'è un portento, chiara dice che la voce è male. Ma non è omologato? No, e cosa vuoi, l'omologazione, si ti dà 15 watt in AM. Proviamo in FM, dai, vediamo un po' come esce. Passa in FM, dai. Ecco. Qua. Vedete un po' come va? 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, se vogliamo è anche più, è come dire, quasi più limpida in FM, non so perché, forse perché è più stretta l'emissione, capito già? Poi Natalì. Infatti, io sono con due passi in FM, non l'ho né usato di nulla. Come ti arrivo già? Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anche io adesso ho chiuso lo squelch. Se te lo sto dicendo, molta gente non la vuol capire che è una telefonata. Poi io sto dicendo con 2 watt, se alto poco a poco, e se con 40 watt normale mi dà parecchio. Quindi qua rimane muto, chiama un VHF, qua rimane muto finché non parlano. Tutti i voti in FM, con questo. Non è che sono un problema. Se uno è più basso del livello dello squelci, perché sennò arrivano furti in FM. Una telefonata, comunque lì, io l'ho preso la media globe, se ti vuoi pigliare, costa 162 euro, 162, e ti fanno la modifica e tutto, e non ti fanno pagare niente, 172 è finito, in 3 giorni era qua. Sono tutti, guarda che io quello che ho qua l'ho pagato un pacco di soldi, una valigia, tutto revisionato, so chi me l'ha dato, tutto quello che vuoi, però sono apparecchi vecchi e se ti lasciano a piedi ci vogliono soldi aggiustarli, capito? Tanto tu non lo devi trattare, devi trattare solo in ricezione. Quindi se tu lo usi solo per ascoltare conviene più un ricevitore che un apparato, capito? Secondo me. Perché dovevo fare quell'esame là. Se no, guarda, mi avrei tenuto volentieri questo che mi soddisfa di più. Figura del popolo, cosa di ne va, di chi va a ragione, Ricci, che cucci, che su 4,40 è vecchissimo lo stesso, io me lo faccio revisionare, almeno sono tranquillo, per un po' di tempo. Che mi riprendo tutti e due, mi rimando in continente, va, e la fai, perché a pigliarli così, di questi vecchi non fa, o te lo prendi nuovo, però fai un pacco di rinati, di quelli modelli nuovi, tipo gli AESU FT10, FT3000 o FT5000, quindi costano un sacco di soldi, il 1200 è come quello che c'è con l'amico nostro, quello è bellissimo, però costa un pacco di soldi, è quello il problema. Vai, una telefonata, Marcolino. Chi è questo che sta facendo ciù qui ciù? Chi è? Avanti. almeno ti faccio parlare con Muro, così impari. Mi avete chiamato, ero, stavo parlando con mamma. Perché c'era uno che faceva ciucucciù, però no, non entra a parlare, gli piace fare ciucucciù, e tu. Ma bisogna rispondere allora. Se non li faccio sentire i piedi, le gambe. Invece a Gianni che piace il karaoke gli facciamo cantare Rose Rosse per te. Comunque, a parte tutto, stiamo staccando il telefono perché sennò ogni due giorni chiama Paoletto. Spera sempre di beccare me, io dico sempre, no, no, non ci sono, dica non ci sono. Ogni assillo. Non me lo posso immaginare. Adesso l'ha presa a vizio. E telefona sempre. Sì, perché lui è sempre stato così, tu gli dai un dito e si prende il braccio. Cioè, addirittura dice che vedeva male la televisione, non vedeva i canali, voleva che gli installassi un decoder nuovo, che gli consigliassi l'acquisto di un decoder TV nuovo e glielo gli facessi l'installazione. Io francamente, se non si attacca con una zecca, lo sai, no, non mi va. I soldi già ce l'hanno, almeno ce l'avevano, che chiamino un tecnico. Sì, me l'avevi già mandato, l'ho visto qual è. Sì, già l'avevo visto, già. Quello lì. Io ho una radiolina con l'antenna sua, giù, dove c'è il tabacchino, stavo ricevendo in 40 metri alla grande. Sapete cosa sarebbe bello FM? Se tu ti metti sul canale a fianco, sul 9, sull'11, non ti accorgi neanche che su questo canale c'è gente. Cioè non è come, anche con i segnali fotti, non è come la M, no? Che bene o male, quei pochi chilo se adiacenti un po' li sporca. In FM no, poi sul canale a fianco non senti nulla, nulla. L'FM è bella per quello. Solo che tutti sono fissati ad andare in AM. Comunque Natalia, ho controllato su internet e il menu di servizio per fare alcune tarature tipo centrare la trasmissione e presumo anche la ricezione, ce l'ha questo apparato. L'ho visto su internet. C'è il menu di servizio come ce l'ha? La Rinco DX10. Deve essere la stessa cosa. Penso di sì, solo che bisogna stare cauti lì, no, bisogna che uno se ne intenda, no, non fa, capito? Io sai che, allora, il DX10 era un po' spostato in trasmissione, in USB, no? L'USB non la conto nemmeno, però un USB deve essere centrato a caldo. Praticamente mi sono ascoltato con un apparecchio che non mi ricordo qual era, forse con ricevitore, vabbè, e mi sono centrato in trasmissione. Poi avevo fatto la prova, mi pare, con Gianfranco ed era quasi praticamente perfetto, centrato perfettamente, fatto a orecchio mi la regolazione, e l'avevo fatta con l'elenco tramite il menu di servizio. Poi non succede niente, se tu vedi che sei andato un po' oltre come taratura, basta riportare quei numeri, quei valori, perché ti compaiono dei numeri nel valore originario e torna tutto come era prima, capito Natalì? Certo, non bisogna girare a caso, però lì devi sapere quale valore toccare, no? C'hai dei parametri, dai, delle cifre. Ma vai Gianni. Insomma, tante cose. Poi addirittura, Natalia, ho letto che gli smanettoni, gli hackeroni, riescono a modificare il firmware dell'apparato, che di solito credo sia di... gli modificano dei parametri per fare cose che normalmente fa, tipo avere i 5 kHz attivi senza stare a selezionare il kHz e muovere la manopola dei canali, no, per andare di kHz in kHz. C'è anche l'opzione per attivare i 5 kHz in più o in meno. Praticamente così ti controlli lo 0 e il 5 finale, subito. Fidati. Quello è comodo sulla tripla 5, perché alcuni mettono con il 5 finale, no? E alcuni si mettono con lo 0 finale. E lì praticamente con questa opzione fai 0,5, 0,5, tutti i canali li controlli e controlli tutta la frequenza con pochi scatti, capito? E non è male come idea. Ma adesso proverò quando c'è propagazione a 5,5 a vedere se come esco, da. Vediamo, vediamo. E così fischia meno, vedi, una femmina fischia meno, guarda. Ecco, ce l'ho sulla, sul bracciolo e non fischia. Vedi, sto parlando così a 20 cm dal mic. Quindi confermi, Natale, mi ascolti bene, niente da eccepire. E sono potenza massima però, 40 watt. Tutto bene, Marco. Ti ascolto benissimo. No, io sono sempre con due parti, cosa lo altri a fare? No, sai cos'è, Natali? Siccome questo lo tengo di solito alto, no? È inutile che sto alza bassa, lo lascio alto. E sono 13 AM, 40 FM e 30 SSB, credo. Ma io me l'ho comprato questo perché scende meno del 3009 per non disturbare nessuno. Ecco perché me l'ho comprato. Lo userò solo in banda laterale e a potenza massima. Oppure. Ehi, allora per Gianni, allora il video non me lo apre, voglio